felicità possibile in questa notte, cosa c'è? La sto inseguendo come un cane e tu sorriderai. Che cosa c'è che fa sognare di magico da vivere? Che cosa più se non sei tu? Di felicità possibile, Silvia, per uno come me. Che non ha viaggi per partire, ce n'è una sola, sai. Pensare a te e tu sei nata 6 giorni fa, e Dio lo sa che cosa io farei. Come tu sei.